Sì, e un saluto anche da quest'altra parte del vetro. Allora, stasera parleremo di due argomenti principali. Parleremo del gruppo di Fuorilegge Rivoluzionari Os Cangaceiros, appunto perché ci sarà un'iniziativa sabato 7 di marzo in presenza, appunto, un incontro con uno dei protagonisti di questa avventura rivoluzionaria, e poi parleremo di un libricino, un opuscolo, insomma, che si intitola La sussistenza, una prospettiva ecofemminista, una pubblicazione, appunto, proposta dal collettivo Terra e Libertà, e che così magari l'ho pensato anche un po' come, diciamo, un avvicinamento all'8 marzo, ecco, perché appunto tratta di questioni ecofemministe, e poi varie ed eventuali. Beh, intanto buon ascolto. Rimaniamo ancora all'ascolto di questi Destructors, scusate, e band inglese. Ciao a tutte e tutti, e questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 5 marzo è la prima parte, come detto, la vogliamo dedicare a questa presentazione. In realtà è un tour in giro per l'Italia dove viene portato appunto questo lavoro. È un lavoro fatto da una realtà che si chiama Tabor Edizioni, e praticamente è un'autoproduzione. Le edizioni Tabor le conosciamo, noi le conosciamo insomma da un po' di anni, e sono così curate da un gruppo di compagni della Val di Susa, hanno una sensibilità particolare per le lotte di riappropriazione e di così di radicalità, insomma, di un approccio radicale alla questione, sia la questione contadina sia la questione del progetto, della progettualità rivoluzionaria, e con una particolare sensibilità anche per le sperimentazioni concrete, ecco, di questi principi nelle varie sue manifestazioni, sia nel tempo sia nello spazio. Allora, appunto, nel tempo, ad esempio, sulle tutta una serie di lavori sulle eresie, con un'attenzione anche alle lingue minorizzate, le eresie dell'età moderna, insomma dell'esordio dell'età moderna, e poi nello spazio con l'attenzione per le, appunto, esperienze concrete di vita comunitaria liberata nelle comunità cosiddette native, sia appunto nelle Americhe, insomma America centrale, sia in Africa come si chiama equatoriale, poi appunto varie visite ai popoli delle montagne, appunto i curdi. È un lavoro, tutto questo preambolo per dire che il lavoro è un lavoro di traduzione dal francese di un così quello che è un rendiconto di un ciclo di lotte svolte appunto in quel territorio, in quella realtà, insomma, oltre le Alpi. Il titolo originale era Du Fric ou non Vutue, ovvero tradotto letteralmente Fuori la grana vi ammazziamo. Era una scritta sui muri di Marsiglia anonima, e l'autore è uno dei compagni che hanno fatto parte di questo piccolo gruppo così, diciamo, gruppo esistenziale politico, e il suo pseudonimo è Alessi dell'Umbria. E magari poi 2 minuti per dire perché questo scelta appunto perché la scelta di non di rivelare il proprio nome. E sì, Fuori la grana vi ammazziamo, ecco. Ah sì, l'edizione in francese era del 2023, volevo dire questo, 2023, e arriva appunto in edizione italiana alla fine del scorso anno 2025, no? Noi l'abbiamo proposto già, una scelta di letture, insomma, in quella fase così lugubre che sono le feste di fine anno, no? C'era una coincidenza di 2 giovedì con queste atroci festività, e noi abbiamo realizzato in maniera casalinga, diciamo così, non il massimo della qualità, quindi fonica, e delle letture appunto tratte da questo lavoro, senza aggiungere così, cornici, considerazioni, introduzioni, postfazioni, eccetera. E quello che vorremmo fare stasera, appunto, in occasione di questo tour che toccherà anche le nostre zone esattamente sabato, appunto, questo sabato 7 marzo alle ore 18, la situazione sarà lo spazio Buriana in via del Bosco 12C a Trieste, no? Zona così tra San Giacomo e Piazza Garibaldi. E appunto ci saranno, oltre ai curatori dell'edizione di Tabor, ci sarà anche in persona Alessi Dell'Umbria. Alessi Dell'Umbria, pseudonimo abbiamo detto, saggista, regista, anche ha realizzato dei documentari, leggiamo dalla pagina Wikipedia in francese, ha scritto Una storia universale di Marsiglia, marsigliese lui, e poi ha scritto un'opera sulle banlieue, cioè nell'epoca delle rivolte, le prime rivolte delle banlieue, primi anni 2000, ha scritto Se de la Raquel et bien Je ne suis. Sono canaglia, questa è la canaglia, allora anch'io lo sono. Eco dal Messico indiano e ribelle, echi dal Messico indiano e ribelle, sulle rivolte a Oaxaca in Messico. Poi ho scritto un Jacques Mesrin Rest in Peace del 2011, tutti i libri accessibili in francese. E poi appunto 2015, questo lavoro che dicevo prima, documentario Il vento della rivolta, ancora su questa sua esperienza in Messico, in particolare un istmo tra due laghi, non ho capito se sono salati o simili, dove però appunto sono stati fatti questi impianti eolici concentrati, insomma, mostruosi, che comportano varie insomma parecchio invadenti, ecco, della vita di queste popolazioni di nativi del Messico, ecco. È già un po' diminuti, mi sembra che parlo, anche se ho detto solo delle ciance, e quindi un po' di musica. Boys, I have to make an announcement. We have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ship to commercial service. E stiamo ascoltando in sottofondo i Bacaiaro, band slovena, da questo esordio su uno split album avvenuto nel 2011 assieme ad una band di Treviso, i Gelo. Comunque noi rimaniamo all'ascolto dei Bacaiaro. Eccoci qua. Allora partiamo, il titolo abbiamo già così un po' accennato, quello che troverete appunto in questa specie di, come l'ho definito prima, un rendiconto, dai, un reportage, non so, dal un memoir, dai, ma però c'è anche un livello di analisi, ecco, non è proprio narrazione, narratività pura, no? Allora, intanto dalla copertina vedrete queste due figure così molto colori molto vivaci, caratteri molto così forti, dai, i caratteri del viso, no? Le caratteristiche del viso, ed è una rielaborazione di questo fumettista brasiliano Joe Oliveira, fumettista e illustratore, che appunto esistono anche delle traduzioni in italiano di questi suoi lavori sulle storie appunto di questi gruppi appunto del banditismo sociale che caratterizzava la regione del nord-est, quindi nel nord-est del Brasile, il Sertão, fine di 800 inizio 900, Cangaceiros o Cangaceiros, no? Il cangasso è il banditismo, cangassei o scangasseiros sono questi appartenenti al cangasso, canga è il gioco, perché l'origine di questo fenomeno banditistico, appunto di ribellismo sociale, era una reazione alla situazione di latifondo, no? di quelle sterminate, insomma zone sterminate nel continente, ecco, brasiliano, e dove appunto i latifondisti imponevano l'ordine con le loro, appunto, i loro gangster, chiamiamoli, no? I loro soliti, ecco, mercenari armati, e la reazione appunto spontanea e popolare dei braccianti e dei servi della gleba sono stati questa esperienza appunto dei Oscangaseiros. Poi ci fu, no, loro, perché invece questo gruppo di oltralpe, di neanche 68, sarebbe, fossero stati in Italia del 77, ma in Francia il 77 non si è visto. Questo gruppo di diciamo così reduci dai degli anni 70, che appunto hanno formato Scangaseiros, scelgono questa realtà di ribellismo, perché nel 1953 era stato fatto un film, Il Brigante in italiano, il titolo in italiano è Il Brigante, il regista è Lima Barreto, ed ebbe una menzione speciale anche al Festival di Cannes, e dove veniva raccontato appunto la vicenda dei ribelli del nord-est, le avventure, insomma gli attacchi, anche così, insomma la violenza politica, insomma gli attacchi armati, ecco, per essere chiari. Ecco, questo è il contesto. Le cose che che erano implicite appunto nel perché è importante questa, per noi questa iniziativa, questa traduzione, ma anche questa, il voler andare in tour, insomma, e quindi essere ospitati anche, insomma, dei nostri compagni di Trieste. Allora, ci sono almeno un paio o anche più, insomma, di elementi per noi importanti che vengono fuori da quel lavoro lì. Allora, tutto un ragionamento adesso, senza appunto. Comunque la genesi di quel collettivo lì l'abbiamo accennato, insomma, la scelta di quel nome lì di Cangaseiros, quindi la scelta di un immaginario ribelle, ecco, era anche un voler scegliersi, delle, come riferimento, un simbolo di diserzione, ecco, un simbolo di non voler di astenersi, non volersi impegnare come appunto militante regolare, no? Dentro un percorso, come si dice, programmato, era una scelta per l'estasi, ecco, con uno slogan, era una scelta per il divenire, per vedere quello che succede, insomma, di tirare i dadi, buttarsi, ecco, nella mischia. Quindi rifiutare il lavoro, sì, ma non a slogan, non a semplicemente appunto come elemento analitico, no, concretamente realizzando il proprio reddito ai danni appunto di chi queste le risorse ce le ha, insomma, e quindi piccole truffe. Perché da un lato, ok, non lavoriamo, dall'altro però non vogliamo neanche finire dentro, no? nel gabbio. Quindi troviamo una, diciamo così, una compatibilità tra la nostra volontà di non faticare e anche però di voler rimanere liberi, di poterci scegliere la vita come vogliamo, di vivercela, e quindi da qui discende la scelta appunto dell'anonimato e degli pseudonimi, no? E secondariamente appunto l'esempio concreto, non so come, capito, cioè non semplicemente pontificare sul rifiuto del lavoro, non lavorare mai nella vita. Secondo, che però è una variante, ma è lo stesso principio, quando cominciano le prime azioni di solidarietà, non sono appunto un impegno programmato di attacco, di lotta armata con degli obiettivi, no? Di scontro con lo Stato, eccetera, è una scelta di solidarietà con le rivolte nelle carceri, ancora una volta, non per rivendicare un cambiamento in meglio della loro situazione, è per proprio una cosa di immediatismo, di solidarizzare, quindi sabotaggi, danneggiamenti, dai, bloccare il TGV, per dire, metà anni 80 siamo, perché queste situazioni vanno bloccate. Cioè, allora, blocchiamo il funzionamento del carcere da parte dei prigionieri, allora noi che siamo fuori, che viviamo di truffe, va bene, noi sì, di truffa, ai danni delle banche, non danni dei risparmiatori, e noi allora blocchiamo il funzionamento, appunto, quindi i direttori di banca si spostano col TGV, noi blocchiamo il TGV, allora, no? Siamo, ci opponiamo, il nostro è un senso di opposizione, ecco, al dispositivo che controlla, no? Cioè che controlla, ma anche che manda avanti l'ingranaggio. Per dire, quando comincia, dopo, appunto, siamo in Francia, allora loro cominciano a condensarsi tra fine 70 e primi 80. Primi 80, appunto, dicevo prima, sono gli anni di questa azione in solidarietà con i carcerati in rivolta. Sono gli anni anche della presidenza di Mitterrand, quindi dove c'è sia il presidente sia il governo socialisti, no? I socialisti, quindi la sinistra francese appunto, che ha attraversato gli anni 70, che ha acquisito, diciamo, tutto la spinta libertaria del 68, delle lotte, ecco, svolte nel maggio francese, e quindi, appunto, sì, socialisti ma anche libertari, ecco, non per essere chiari, adesso è difficile nella realtà di adesso è difficile capire cosa si intende, ma comunque in quel senso, libertari in quel senso, no, non, ecco, non stalinisti, dai, e contro l'ordine, va bene. Quando questo mito nell'86 corrisponde al fatto che, appunto, questo governo ballerino cade, e c'è il premier è di destra, mentre Mitterrand rimane in carica, no? La convivenza, non mi ricordo adesso, convivenza mi pare, nell'86 c'è la convivenza, e progressivamente, no, entra anche oltre Alpe, entra il liberismo, insomma, le prime cosiddette sanguinarie riforme, no, del lavoro, no? Quindi una marea di precari, una marea di disoccupati, si bloccano anche le lotte, diciamo, tutte le lotte, anche studentesche, sono tutte lotte fra virgolette riformiste, no? E piano piano si comincia a capire che questo discorso qua del lavoro, cioè tutti quegli operai, ma non solo operai, ecco, operai, ma anche tutta una serie di settori lavorativi che, appunto, finito il maggio, dove, appunto, il maggio era una spinta per l'estasi, come ho detto prima, cioè era una spinta una richiesta di rivendicativa, che però è diventata esistenziale, no? Non è iniziata con come anche in Italia, anche da noi si è iniziati a chiedere cose, non so, rivendicazioni economiche, no? Aumenti salariali, ma poi è salita sempre più sta roba fuori controllo, e si è arrivati a chiedere tutto, no? Qualsiasi cosa, ecco, non solo di abbassare l'affitto, non solo di aumentare il salario, ma anche di vivere, no? Di non lavorare, di vivere, e di vivere come si voleva, per farla breve, ecco, la spinta libertaria è questa. Quando questa qua, però, questa spinta finisce, riguadagna allora tutto l'armamentario delle trade unions, no? Quindi ritorniamo in ordine, andiamo ogni scadenza contrattuale chiediamo graduali aumenti, graduali miglioramenti, e questa qua appunto con l'ondata neoliberale si rivela una sola, capito, in romano, perché cioè una sola era una, chi ci credeva, no? che era vera sta cosa qua, che gradualmente tutti avrebbero lavorato, era semplicemente svelato il meccanismo di controllo, appunto, cioè che Stato e capitale avevano bisogno di questo ingranaggio per controllare, no, tutti quelli che non sono controllabili, le situazioni più ingovernabili che rimangono fuori dall'ordine, con i loro rituali, che siano in fabbrica, che siano, non lo so, ecco, allo stadio, dove appunto anche lì c'erano rituali precisi di scontro, no, tra le tifoserie, ma che non erano, appunto, erano rituali precisi, non erano scontri per cercare il morto, no? Quando vengono fuori i morti all'Aisel, no, allo stadio lì, alla finale di Coppa Campioni nel 85 tra Juventus e Liverpool, il motivo era precisamente che il sistema di controllo, il dispositivo di controllo dell'autorità era non stava in piedi. Quindi quando appunto in quelle situazioni lì sono precisamente quelle dove a causa degli stati appunto ci scappa il morto. Normalmente negli scontri ci sono altri obiettivi, altri motivi, altre spinte, altre così, processi in corso. Quindi questo, ecco, io pare che ho parlato un bel po' di questo lavoro. Ci sarebbe ancora da dire altre cose che sono in sintonia con quelle che abbiamo detto tante volte da questo microfono, sulle esperienze di qua delle Alpi, cioè le esperienze italiane, Giorgio Cesarano, Paolo Ranieri, Riccardo d'Este, tutta appunto il giro della critica radicale, appunto partendo da Lud a appunto dopo a organizzazione comontista al seguito, ecco, che per arrivare fino agli anni 80 inoltrati, sono realtà che erano così vagamente anche in collegamento in qualche maniera negli anni 80. Chiaramente negli anni 80 sono gli anni del riflusso e non è neanche semplice, non era neanche come adesso, ecco, che è tutto collegato. Quella volta ci si scriveva appunto carta e penna e basta. Queste, secondo noi, sono appunto è un lavoro importante, un'iniziativa importante, e l'invito è a partecipare, a andare a sentire, ecco, questa presentazione di Fuori la grana, ove ammazziamo, di Alessi dell'Umbria. E veniamo alla sussistenza, una prospettiva ecofemminista. Sempre sulle faccende del lavoro, rifiuto del lavoro, rifiuto di sottostare alla produzione di merce, di plusvalore imposta dal capitale, ci dicono Maria Mies e Veronica Benold-Thomsen che la produzione di sussistenza è opposta alla produzione di merci di plusvalore. E ancora ci dicono, rispetto all'ossessione del salariato, l'ossessione del maschile, loro dicono, e cioè l'ossessione del salariato, è lo strumento stesso dell'ideologia patriarcale moderna. Questo concetto è già maschile per l'esclusione, o piuttosto la negazione, degli elementi femminili. Il modello del salariato è quello di un impiego maschile nell'industria, piuttosto che il lavoro delle madri e delle donne che assicurano i bisogni immediati della vita quotidiana, in particolare la cura prestata ai bambini e agli anziani. D'altra parte, il rapporto capitale-lavoro salariato fa della relazione patriarcale tra i sessi lo stato normale della società. Così il concetto di economia si riduce alla produzione di merci, come il lavoro è ridotto al salariato, il lato pacifico e conservativo senza il quale nemmeno il capitalismo selvaggio può perdurare, è presentato come una tela di fondo femminile naturale. E le donne, o piuttosto il lato femminile materno dell'esistenza umana, sono così escluse dai rapporti di produzione e relegate a semplici pendagli decorativi. D'altro canto, il lavoratore qualificato, diciamo rappresentazione dominante del lavoratore salariato, è un uomo, e allo stesso tempo il lavoratore qualificato salariato è visto come colui che provvede ai bisogni della famiglia con il suo salario, che nutre la famiglia e apporta il sostegno necessario alla moglie casalinga. Non di meno è impossibile immaginare un salariato senza casalinga, perché la sua esistenza materiale è inconcepibile senza di lei, così come la semplice possibilità che gli esista, perché la merce che vende, cioè la sua forza lavoro, deve innanzitutto essere prodotta, e questo non avviene nell'ambito della produzione di merci, la sua forza lavoro deve anche essere riprodotta. E insomma, nemmeno negli ambiti non materiali della sua esistenza si può concepire il lavoratore salariato senza casalinga, perché per il salariato la subordinazione della donna di casa era e ancora resta ciò che compensa la propria dipendenza nel rapporto salario-lavoro, una specie quindi di appunto ricompensa, diciamo, per la vendita della sua forza lavoro. E similmente le due autrici sostengono che senza produzione di sussistenza non esiste produzione di merci. Invece, senza produzione di merci, la produzione di sussistenza perdura. Che poi, appunto, questo concetto di sussistenza viene anche chiamato abbondanza, appunto, contro, diciamo, l'economia di sfruttamento, no? Quindi, e di conseguenza, se senza produzione di sussistenza non esiste produzione di merci, si può anche sottrarre, no? È possibile sottrarre questa produzione di sussistenza e quindi togliere, diciamo, legna sotto il fuoco, appunto, della produzione di merci e dello sfruttamento. E questo per fare un collegamento, diciamo. Ma andiamo per ordine, facciamo un passo indietro. Allora, dicevo, questo, chiamiamolo opuscolo, è una traduzione di traduzione. Infatti le compagne e compagni di Terra e Libertà dicono, dal punto di vista filologico non è proprio il top, ma in quanto si tratta di una traduzione dal francese di un testo però concepito da queste due ecofemministe tedesche. La sussistenza, appunto, una prospettiva ecofemminista, è un volumone di 400 pagine, e i compagni e le compagne ne hanno tratto, diciamo, hanno scelto dei brani, appunto una scelta comunque significativa e interessante, appunto, come che funge da spunto, no? Per la riflessione. E allora, le due in questo testo, appunto, Maria Mies, che è scomparsa tra l'altro recentemente nel 2023 a 92 anni, e Veronica Benold-Thomsen, che erano di questa scuola di Bielefeld, scuola ecofemminista, loro tengono insieme la questione femminista, la questione ecologica e la questione economica. E praticamente scelgono questo termine sussistenza, poi magari leggerò delle cose, fanno anche degli esempi molto, portano appunto anche loro, sono molto interessate a questo discorso delle esperienze concrete, delle sperimentazioni concrete di vita comunitaria liberata, e mi viene su adesso, mi ricordo questi due esempi del Bangladesh e del Guatemala. Appunto raccontano come delle comunità di base, diciamo, di questi luoghi portino avanti questo progetto di sussistenza e di abbondanza e di felicità, tra virgolette, in maniera concreta, insomma. E appunto parlano di economia morale di sussistenza contro il capitalismo, contro il patriarcato, contro il colonialismo e anche contro lo Stato. E sì, le compagne e compagni di Terra e Libertà appunto propongono questo testo perché ci dicono questi spunti sono interessanti, perché queste due autrici non solo mostrano il lato rovescio, il lato oscuro dello sviluppo, diciamo, e criticano in maniera sì drastica la concezione lineare, evolutiva e cumulativa del tempo storico, ma mettono proprio in discussione l'architrave di tutto ciò, e cioè smontano l'idea che il regno della libertà sia possibile soltanto oltre il tessuto della necessità, e che questo oltre venga garantito dallo sviluppo delle forze produttive, favorito dalla tecnologia e, arrivando ai giorni nostri, promesso dal transumanesimo. E appunto il libro originario è del 1988, quindi insomma ha un po' di anni, però ugualmente propone insomma molte riflessioni che sono tuttora produttive per noi, insomma, per ragionare. E appunto, quindi, la necessità, difatti nella promo, diciamo, avevamo utilizzato questa frase, l'autodeterminazione nei limiti della necessità, non in un altro mondo ma in questo, perché è importante sfatare appunto questo mito che il superamento della necessità porti la libertà, perché il superamento della necessità avviene appunto attraverso il dominio. E praticamente se non si prende coscienza che procurarsi il cibo, stare al caldo, crescere i figli, curarsi, rigenerare i beni naturali dai quali dipendiamo, quindi diciamo se la soddisfazione dei bisogni primari, ecco, rappresentano, è importante avere coscienza che sono necessità che non si possono abolire, allora o affrontiamo queste necessità in una maniera di reciprocità ecologica, non gerarchica, eccetera, oppure continueremo ad addossare il loro carico su altri esseri umani e soprattutto su donne e popoli del sud, o comunque, per usare il loro linguaggio, ma possiamo dire popoli colonizzati, il cui sfruttamento è un tutt'uno con la distruzione della natura. E come dicevo prima, senza produzione di sussistenza non esiste produzione di merci, in quanto questa, diciamo, fino all'inizio dell'era industriale, la produzione di sussistenza ha permesso alla gente di vivere e sopravvivere nonostante appunto la produzione industriale, nonostante la produzione globalizzata di merci e il dilagare del lavoro salariato universale sul mercato capitalista. Quindi le persone sono sopravvissute grazie, diciamo, a questa produzione di sussistenza che gli permetteva di in qualche maniera di tirare avanti, ma al contrario, appunto, senza produzione di merci, quindi senza produzione di sussistenza non c'è produzione di merci, però al contrario, senza produzione di merci la produzione di sussistenza perdura, quindi appunto, come dicevo prima, si può negarla alla produzione di merci e liberarsene. E, appunto le due autrici insomma arrivano anche a approfondire la critica radicale alle tecnoscienze e a parlarci dei brevetti sulle sementi e sui geni, e cioè l'artificializzazione del cibo e della riproduzione del vivente, e appunto mettendo bene a fuoco che questi sono parte dell'apparato patriarcale di dominio. Arrivano poi a una critica abbastanza così forte, diciamo, al femminismo postmoderno, e appunto loro scrivono nel 1988 che era il momento in cui nascevano gli studi accademici, insomma, soprattutto nel mondo anglosassone, gli studi femministi accademici, quindi c'è tutto questo nascita di dipartimenti, appunto, di studi delle donne, e loro insomma se la prendono abbastanza con appunto tutto questo filone, diciamo. Beh, anche un po' perché contrastano questo tormento ossessivo anti-essenzialista, cioè loro un po' insomma denunciano il fatto che da quel momento lì in poi c'è stata questa accusa di essenzialismo tutte le volte che si mette in discussione, diciamo, la tecnologia sui corpi, queste robe qua. E poi se la prendono con il femminismo postmoderno, perché dicono: siccome hanno fondato i dipartimenti, hanno cominciato a far girare finanziamenti, hanno creato le figure accademiche, allora da lì, diciamo, hanno cominciato a valorizzare gli archivi del pensiero femminista, le lotte, come se le lotte fossero nate nei dipartimenti, ma invece no, i dipartimenti, diciamo, hanno raccolto le testimonianze delle lotte, magari, e a volte anche cambiandole di segno, mistificandole, ma in realtà la memoria non ha necessità dei dipartimenti, la memoria delle lotte e diciamo, portare avanti le lotte non ha bisogno di luoghi istituzionali, appunto, con tutti messi in regola, diciamo, per esprimersi, no? Cioè se si sostiene questo, diciamo, si impoverisce il discorso, appunto, dell'autodeterminazione e della lotta sul campo, insomma, della lotta dei soggetti che subiscono un'oppressione e uno sfruttamento per la propria liberazione. Magari, ecco, mettiamo ancora un po' di musica e poi continuiamo. Sfumiamo un po' questa band, che così la presentiamo, che anche abbiamo ascoltato un brano in precedenza, Loro sono i Gelo, che in un certo senso li avevo già annunciati prima, perché fanno parte di quello split LP con i Baccaiaro che abbiamo già ascoltato. Comunque questi Gelo da Treviso. Allora, ci dicono Maria Mies e Veronica Benold Thompson in questo La sussistenza, una prospettiva ecofemminista. Dobbiamo disfare i legami tra la produzione della vita e la produzione del capitale. E poi ci dicono l'agricoltura e l'economia contadina sono delle componenti essenziali di questa prospettiva orientata verso la sussistenza. E anche ci dicono, ma perché le prospettive alternative di sinistra fanno così fatica a considerare l'economia contadina? Principalmente perché, secondo lo spirito del tempo, l'economia contadina viene vista come una sorta di arretratezza, una forma di assoggettamento alla necessità dalla quale si pensa di emanciparsi grazie allo sviluppo delle forze produttive. Ma per noi la terra, il suolo, è una materia differente che esige di conseguenza un trattamento differente. E poi ci parlano, in un altro capitolo, insomma, paragrafo anzi, di un dibattito degli anni 70, un dibattito tra campesinistas e descampesinistas. Ci dicono, coloro che erano impegnati nel dibattito attorno alle comunità contadine indigene all'inizio degli anni 70 si domandavano se queste comunità sarebbero potute sopravvivere o se fossero condannate a scomparire. Si trattava del famoso dibattito fra campesinistas e descampesinistas. Parliamo di discorsi dal momento che i descampesinistas volevano che la comunità scomparisse e ne parlavano quindi come se questa fosse già scomparsa. Aderivano a un progetto politico socialista, secondo loro la solidarietà organica, così come la praticavano le comunità agricole indigene, era inferiore alla solidarietà automatica della classe operaia e inoltre ostacolava lo sviluppo della corretta coscienza politica della classe operaia. Questi sedicenti progressisti giustificavano di fatto un processo già in corso in Messico, con o senza la loro approvazione. Lo Stato stava espropriando e distruggendo delle comunità locali per sostituirle attraverso proprietà più vaste, dirette dallo Stato, che si chiamano Eidos, con dei modi di produzione che ne facevano delle imprese cooperative o collettive, organizzate secondo principi in apparenza comunitari. La filosofia che sottende questa politica si riassume in questo modo: più è grande e più è meccanizzato, più tutti ci guadagnano. E possiamo così distinguere una comunità fondata sulla reciprocità, cioè una comunità che conta sui suoi membri, dai pretesi regimi comunitari imposti autoritariamente. La collettivizzazione e le tappe di cooperazione a un'impresa collettiva non sono altro per lo Stato che un mezzo per controllare i contadini al fine di industrializzare l'agricoltura. Ciò non ha nulla a che vedere con un sistema comunitario. In realtà questa politica riduce i contadini allo stato di proletari rurali. Questi meccanismi sono ancora più coercitivi sotto un regime socialista, ma con la sicurezza del posto di lavoro. E insomma, diciamo, arrivando un po' alle conclusioni di questo ragionamento, ci dicono: non esistono beni comuni senza comunità e non esiste comunità senza reciprocità. E difatti si occupano molto in questo opuscolo, insomma, ci sono dei paragrafi dedicati a nuovi beni comuni e nuove privatizzazioni, perché appunto queste due compagne ecofemministe sono molto critiche anche verso il marxismo, no? E in particolare verso il socialismo reale, diciamo. E ci dicono: in generale i processi violenti di privatizzazione e colonizzazione dei beni comuni, tanto al nord quanto al sud, sono considerati appartenenti a un periodo oscuro che precede l'avvento della modernità. Marx vi vedeva una manifestazione dell'accumulazione originaria del capitale che sarebbe scomparsa con il progresso scientifico, quando il capitalismo sarebbe diventato una macchina di riproduzione della crescita. Tuttavia ciò fa apparire una contraddizione inerente a questo modo di produzione. Esso può privatizzare, colonizzare e sfruttare i beni comuni materiali e immateriali, ma è incapace di ricrearli. Non di meno ne ha bisogno per proseguire il processo di accumulazione. Ecco, e poi se arriviamo a Jeremy Rifkin, che appunto dice: arriviamo al brevetto. Il brevetto rappresenta il punto culminante di 500 anni di privatizzazione dei beni comuni del pianeta, il cui ciclo nefasto comincia nel prato comunale dei piccoli villaggi disseminati nella campagna inglese sul continente europeo. Ormai si è confiscato, privatizzato e ridotto le componenti della vita allo stato di merce. E parlando sempre di beni comuni, le due autrici ci un po' così svelano, diciamo, la mercificazione, insomma, di questo concetto di bene comune, no? Che allora, tenendo conto che è scritto nel 1988, quindi sono passati un casino di anni, in realtà questa retorica dei beni comuni oggi come oggi è abbastanza pompata, no? E da sinistra ma anche da destra, nel senso che viene appunto piegata, diciamo, questo concetto di bene comune viene piegata in una prospettiva neoliberista, e quindi per dare permettere che le multinazionali, ad esempio, si appropriino e il turbocapitalismo si appropri un po' di tutto. E infatti ad esempio loro ci fanno l'esempio dell'UNESCO, che ha dichiarato al tempo, aveva dichiarato il genoma umano bene comune mondiale, appunto dicendo che si trattava dell'eredità comune dell'umanità. Ci dicono: esaminando più attentamente il documento dell'UNESCO ci si rende conto che la definizione stessa del genoma umano come bene comune mondiale autorizza gli interessi commerciali e scientifici privati ad accedervi liberamente. Da un lato, in nome della dignità umana, si dichiara il genoma umano inviolabile e bene comune mondiale; dall'altro, si autorizza la tecnologia genetica e gli interessi commerciali ad accedervi. Questa forma di doppio linguaggio è tipica del discorso attuale sui beni comuni. Vandana Shiva ha spiegato che le grandi imprese farmaceutiche e agroalimentari tentano di accedere liberamente alle risorse genetiche dei paesi del sud. E, appunto, al fine di assicurare un libero, di assicurarsi un libero accesso alle materie prime. E, quando le multinazionali affermano che le risorse fino ad oggi sotto il controllo e la protezione delle comunità locali, contadini, popoli tribali, sono un patrimonio comune dell'umanità o dei beni comuni mondiali, possiamo essere certe che il loro scopo è privatizzare, commercializzare e monopolizzare tali risorse. Ecco come si svolge questo processo. I beni comuni di altri popoli o comunità sono dichiarati beni comuni mondiali o patrimonio universale dell'umanità. Le multinazionali ottengono di accedere liberamente a questi beni comuni mondiali quando si legittima allo stesso tempo questo furto con delle nuove leggi, leggi sui brevetti, e si dichiara che lo Stato-nazione è il guardiano del bene comune in questione. La privatizzazione, la commercializzazione e la monopolizzazione sono giustificate in nome del progresso e dello sviluppo. Ne seguono l'esproprio e la pauperizzazione delle comunità locali. Conclusioni: non esistono beni comuni mondiali. Per non essere raggirate dal linguaggio della privatizzazione, dobbiamo dire chiaramente che non esistono beni comuni mondiali, perché chi dice beni comuni dice comunità. Ovunque i beni comuni siano esistiti sul filo del tempo, essi sono stati protetti, mantenuti, utilizzati e il loro accesso regolamentato da comunità locali identificabili e i cui mezzi di sussistenza dipendevano da tali beni comuni. E quindi, poi loro arrivano anche al discorso della reinvenzione dei beni comuni al nord, quindi nel mondo cosiddetto primo, insomma, sviluppato, nel senso il mondo appunto che colonizza il resto del mondo per mandare avanti la propria macchina produttiva. E ci dicono appunto: reinventare i beni comuni all'interno della società industriale significherebbe innanzitutto ricreare delle comunità che si facciano carico, sentendosene responsabili, di ecoregioni o ambiti delle realtà e della vita, facendone la base dei loro mezzi di esistenza. Quindi arriviamo ancora qua, che bisogna a quello che si diceva prima, insomma, che è necessario disfare i legami tra la produzione della vita e la produzione del capitale. Sì, ci sono in questo libretto ci sono tanti spunti anche riguardo, cioè anche ad esempio viene messa in discussione la separazione, come viene messa in discussione la separazione in questo caso tra produzione e consumo, perché ci dicono la produzione e il consumo non sono due sfere economiche separate ma legate fra loro. I modi di produzione sono orientati al soddisfacimento dei bisogni di comunità reali, regionali o locali, e non sono basati sulla domanda di un mercato mondiale anonimo creato artificialmente, no? Questo nel caso appunto di una reinvenzione dei beni comuni. In questo tipo di economia l'idea di spreco non esiste, non si produce né ciò che non può essere consumato né ciò che genera dei rifiuti impossibili da smaltire in questa o quella ecoregione. E quindi questo discorso, insomma, che non è possibile che ci sia questa alienazione tra i produttori e i cosiddetti produttori e i cosiddetti consumatori. Ma perché altrimenti ci dicono chiaramente nel sistema di capitalismo di mercato non può esistere questo senso di responsabilità e di cura di una regione particolare, perché produzione e consumo sono separati e avvengono a due estremità del pianeta. I produttori, cioè i salariati, non si interessano del valore d'uso dei loro prodotti in quanto tali. È soprattutto il loro salario che li interessa. Per parte loro i consumatori si interessano al valore d'uso delle merci che acquistano, ma la loro provenienza, così come la destinazione dei rifiuti, gli importano poco. Il loro personale interesse esige la soddisfazione immediata dei loro bisogni individuali, non si estende né ai produttori di queste merci, né alle conseguenze ecologiche del modo di produzione, né al problema dello spreco prodotto dal loro modo di produzione. Allora, all'inizio avevo detto, poi mi sono forse fatta prendere la mano, avevo detto che questa, così, la proposta di questa lettura, di questo La sussistenza, una prospettiva ecofemminista, voleva essere anche così un po' un accenno all'8 marzo, senza parlare di 8 marzo, no? Parlando appunto di femminismo, di ecofemminismo. Allora concludiamo magari concludiamo questa, così, questi spunti di lettura parlando della arrivando a parlare della domesticazione o della anche detta casalinghizzazione delle donne e privatizzazione appunto dei beni comuni. E le due autrici si interrogano sul perché sia così difficile percepire i retropensieri che sottendono il discorso sui beni comuni mondiali. E ci dicono, quando sentiamo, parliamo sempre del mondo del nord, per schematizzare, quando sentiamo parlare per la prima volta della necessità di considerare l'acqua, l'atmosfera, lo strato di ozono, il clima o la biodiversità in quanto patrimonio comune dell'umanità, la maggior parte di noi ha l'impressione che si tratti del miglior modo di impedire la loro distruzione. Ma in realtà questo discorso utilizza gli elementi dell'ideologia patriarcale capitalista, nel senso in cui si dichiarano improduttivi e senza valore la natura e il lavoro in rapporto diretto con la natura, in questo caso attraverso l'accesso comunitario alla natura. La maniera in cui sono teorizzati oggi i beni comuni per farne una causa mondiale ci ricorda un altro processo di spossessamento, cioè la domesticazione del lavoro femminile nel momento della comparsa del capitalismo. Nel corso di questo processo, lentamente ma inesorabilmente, ci si è messi a ignorare, fino a renderla completamente invisibile, la parte economica di diversi tipi di lavoro. Lavoro domestico, lavoro con i bambini e lavoro nelle fattorie di sussistenza. Tutti lavori compiuti essenzialmente dalle donne. Questo lavoro ormai non lo si considera più come tale, ma come un semplice servizio reso per amore. In altri termini, si è idealizzato ed è economizzato allo stesso tempo il lavoro delle donne. E quindi dal sentimento positivo che le impregnava, cioè da tutta la stima che si tributava loro e che queste portavano in sé, il risultato, cioè questa stima e questo sentimento positivo, diciamo, rimane solamente a livello simbolico, cioè diventa un sentimento artificiale che non viene più preso in considerazione seriamente. Dall'altro, l'economia diventa ciò che si fa senza amore, vale a dire senza provare un sentimento positivo verso gli altri attori economici, i vegetali, gli animali e gli oggetti utilizzati per lavorare. Una volta che si è smesso di considerare il lavoro di sussistenza effettuato dalle donne come lavoro, diventa legittimo e giusto appropriarsene gratuitamente, fatto che non è nemmeno più percepito come sfruttamento. Dall'inizio dell'epoca moderna, cioè a partire dal XVI secolo e durante tutto il periodo moderno di caccia alle streghe, la categoria sociale di casalinga è diventata realtà per le donne. Parallelamente, per gli uomini ha preso forma la categoria sociale di proletario. Ben inteso, anche le donne sono proletarie, ma con la differenza che socialmente sono in ogni caso delle casalinghe. Volevo ancora dire due cose. All'inizio dicevo che la Mies e la Ben Old Thompson ci portano anche degli esempi concreti, delle sperimentazioni concrete di popolazioni native che appunto mettono in pratica, resistono alla guerra contro la sussistenza e mettono anche in pratica appunto questa prospettiva di sussistenza, questa abbondanza. Allora, faccio solo questo esempio qua del Guatemala. Le comunidades de población en resistencia, cioè le comunità degli abitanti in resistenza, sono la risposta dei Maya alla politica genocidaria della terra bruciata condotta dai governi militari guatemaltechi. Queste comunidades sono state create nel corso dei peggiori anni di repressione del regime, dal 1980 al 1982, quando molta gente era già in fuga. E con queste comunidades i Maya hanno ricostruito un'economia di sussistenza contadina nella quale il mercato settimanale gioca un ruolo centrale come luogo di scambio e di comunicazione. Per queste persone impegnate nelle comunidades de población en resistencia, il fatto di non compiere alcun lavoro remunerato in quanto braccianti stagionali è parte della loro resistenza. Per secoli i popoli indigeni del Guatemala sono stati costretti al lavoro forzato dai dirigenti coloniali spagnoli. La manodopera salariata che lavora per grandi proprietari terrieri, soprattutto nelle piantagioni costiere, ne è la continuazione diretta. E quindi loro, appunto, questi campesinos hanno deciso di smettere di compiere qualsiasi lavoro remunerato. Dagli anni 70 la resistenza ha continuato a crescere, le comunità si alleano e organizzano la propria sussistenza su base cooperativa. Negli anni 70 gli abitanti dei villaggi hanno sostenuto la guerriglia. Quando nella guerra contro la sussistenza, per citare Illich, non vincevano sufficienti battaglie, i militari facevano ricorso al genocidio. Nelle montagne guatemalteche intere zone furono spopolate. Decine di migliaia di abitanti hanno dovuto scegliere tra la fuga o il massacro. In seguito i rifugiati hanno cominciato a organizzarsi nelle foreste e nelle colline. Al fine di sopravvivere hanno dovuto innanzitutto assicurarsi di potersi nutrire, ed è così che è nata la nuova economia di sussistenza delle comunità in resistenza. Quindi niente, questo, cioè anche questa così testimonianza, insomma, pratica, è un fatto che dà una spinta, insomma, di speranza, appunto, in questa di questa necessità di un'autodeterminazione nei limiti, appunto, della necessità, non in un altro mondo, ma in questo. Io vi ricordo solo gli estremi dell'opuscolo: La sussistenza, una prospettiva ecofemminista, brani scelti, una autoproduzione del collettivo Terra e Libertà. E lo potete trovare nello spazio autogestito di Via De Rubeis, perché lo distribuiamo, e anche richiedere a terrelibertà@inventatti.org. Come sempre un saluto particolare e speciale a chi ci ascolta in condizioni di limitazione delle proprie libertà di movimento. Questo ultimo così spazio ce lo ricaviamo, insomma, da questa puntata per parlare di un di carcere, in particolare il carcere più grosso di Napoli. È stato diffuso un attacchinaggio, insomma, in città in questi giorni, e andiamo a leggervi il testo di questo comunicato, di questi manifesti attacchinati. Da anni il punto di sfogo del sistema di repressione e di coercizione umana è individuato dalle autarchie di tutto il pianeta nel mondo carcerario. Le maggiori ingiustizie sociali, le più forti forme di coercizione psicologica, le più raffinate e subdole forme di intrusione nella mente umana vengono sperimentate all'interno delle carceri. E la disgregazione umana assurge a metodo di controllo e repressione, non sempre direttamente percepibile dal detenuto, e circostanza ancor più grave, quasi mai percepita dal mondo esterno. In questo solco sembra avviarsi il nuovo direttore del penitenziario di Secondigliano, che con logica costrittiva e restrittiva in poche settimane si è subito fatto conoscere dalla popolazione detentiva. In verità la conoscenza fisica di questa persona non si è ancora avuto il piacere di farla, perché da buon soggetto autoritario non ha inteso nemmeno presentarsi ai detenuti. Nessun giro di conoscenza per i reparti, nessun comunicato, nessuna forma di contatto con i detenuti. Quello in cui si è tanto profuso invece è nell'emissione di numerosi ordini restrittivi che hanno notevolmente aggravato la situazione detentiva. E qui c'è un elenco: diminuzione delle telefonate agli avvocati con notevole deterioramento del diritto alla difesa dei detenuti, chiusura anticipata dei blindi delle celle, limitazione delle ore di accensione dei termosifoni, limitazione sui cibi in ingresso portati dai familiari dei detenuti, eliminazione di molti prodotti alimentari prima distribuiti con il normale vitto, forte diminuzione dei corsi di formazione e di ingresso degli assistenti volontari, elemento fondamentale per il reinserimento dei detenuti nella vita esterna. Tutto questo in virtù di una interpretazione restrittiva dell'ordinamento penitenziario, che però molto spesso è in senso unico. Ed invero risulta che molte delle norme regolamentari dell'ordinamento non vengono rispettate dall'amministrazione detentiva. Non viene mai rispettato il menu ministeriale, non sono rispettati i diritti dei detenuti in relazione alle visite dei familiari, visto che in alcuni casi anche conviventi dei parenti non sono ammessi a colloquio diretto. Non viene fornito il giusto quantitativo di derrate alimentari nella qualità prescritta ex lege. Molto spesso il vitto è così scadente da non poter essere consumato, e sempre altrettanto spesso i detenuti sono costretti a rimandare indietro la frutta marcia che nemmeno gli animali mangerebbero. È notorio che i controlli sanitari dell'ASL vengono preannunciati e di conseguenza le ore precedenti a tali accessi sono dedicate alle grandi pulizie e le derrate alimentari vengono sostituite con quelle di miglior qualità. Rilevato che il detenuto per l'alimentazione costa allo Stato meno di 3 euro cada uno al giorno, mentre in totale dovrebbe costare circa 150 euro al giorno, alcune domande si pongono. Che tipo di prodotti potrà essere mai fornito a questo prezzo se non uno scadente? Come fa a costare 150 euro al giorno un detenuto a cui vengono forniti nemmeno i servizi primari, quali la sanità, un medico non è quasi mai presente, un accertamento medico radiografico è assolutamente un miraggio, visite specialistiche vengono effettuate solo saltuariamente e senza un criterio logico, i medici privati personali praticamente sono banditi ed esclusi dal carcere anche se disponibili a sottoporsi a tutti i controlli necessari. Questa situazione genera il più grande delle domande: dove sono i fondi che lo Stato destina alle carceri e che ammontano a 3,5 miliardi di euro all'anno? Dove sono i fondi destinati all'alimentazione, visto che mangiano solo prodotti comprati dei detenuti, visto che mangiano solo prodotti comprati a proprie spese, con il sopravvitto memori del fatto che dalle ricerche effettuate il vitto non solo è scadente ma addirittura dannoso? Pertanto si condanna il comportamento autoritario e repressivo del nuovo direttore del carcere di Secondigliano, che non ha nessuna volontà di confronto con i detenuti e che sicuramente comporterà un inasprimento delle condizioni di vita di questi ultimi. Et reproduisent des dogmes derrière. D'autres maintiennent dans l'ignorance pour asseoir leur puissance monétaire. Les puits de pétrole qui financent des dynasties religieuses séculaires. Y'a ceux qui naissent dans l'ignorance et servent de chair aux militaires. Ceux qui appuient comme la France des théocraties sanguinaires. C'est triste à dire, mais à 15 ans, les jeunes d'ici ne pensent qu'à se marier. Leur seul rêve, c'est la berline. Gosses, maison et caninés. Y'a pas à dire, aller de l'avant. Dur quand on veut pas s'émanciper. Ils sont courtisans du sud. Bene, siamo al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics. E volevo ricordare che appunto siamo in diretta radiofonica, il programma è iniziato alle ore 20 e fino alle ore 21.30, cioè adesso, ogni giovedì qui dai studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 5 marzo 2026, scusate. Volevo anche ricordare che la trasmissione è condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come di consuetudine al termine di questa trasmissione ricordiamo i nostri contatti. Chi ci vuole scrivere tramite posta elettronica può farlo intestando a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che chi vuole riascoltare questa trasmissione, ma anche quella di tutte le volte scorse, può andare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Salutiamo tutti, chi ci ascolterà anche domani in replica sulle due web radio, Radio Eustachio alle ore 11, ovviamente in replica, e chi ci ascolterà anche nel pomeriggio da Radiazione, cioè su Radiazione, che è un'altra web radio. Bene, vi lascio con un ultimo brano preso da questa compilation che abbiamo ascoltato durante tutti gli interventi precedenti. Sono ben 32 le band che hanno partecipato all'interno di questa compilation, anche se è un po' datata, è uscita nel 2007, è un CD benefit, è uscito in Venezuela, esattamente a Caracas, è un benefit per una rivista anarchica che si chiama El Libertario. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con un ultimo brano, così diciamo a caso, perché è una compilation internazionale. Ciao, adesso, anzi ve lo dirò, I Misery, band storica del punk hardcore statunitense. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. blood.